guardi, da sono io che ho ucciso, non li smollo sul motore. Sono a 78 anch'io, là la distanza. Meglio così, così domani mattina parti al fresco, sarà contento. Capito, se sei alle scorie? Se sei alle scorie, tocca a te andare. Non è detto. Ma da Giorgia ne cosa ti ha detto? Beh, l'ha messa in culo, dove l'ha messa tu? Che ormai si è rotto, si spana, ti apri. Ormai, adesso, quella la mandò lì, quella la mandò là, qua non mi conviene, mandaci a quello lì, capito? L'ha messa in culo, funziona. Non so da qua che dovevo fare. Oddio, non è che ne avesse fatto così tanto. L'ha fatta ieri sera il geometra, ha piovuto molto, molto, molto. Quick Watergate, man. And I will post it up. Number 5, you can hit him on Facebook and find it. Put your number on the Watergate now. Send it to you in a text. And put your number on the Watergate. Just speak your number on the Watergate, and then I'll turn around and send it to you in a text. What do you mean you don't know how to do that? You don't know how to receive a text? Yeah, Pro-10. Just put your number. Just speak your number, and the Watergate will get it, and then I will send it to you. No, it did not help. Put your number on the Watergate. What's your number so I can send this to you? No, I'm getting bleed over from Channel 11. Not again. Yeah, Pro-10. Okay. Do you have WhatsApp? Do you have WhatsApp? Okay. This off now while it's still nice and short. I'm gonna give me a phone. It's still in there. Turn in the audio. It's still in the equipment. It's not in the audio. It's either you or your driver or something in your equipment. I'm gonna send it to you so you can hear yourself. Go ahead, key. One more key. Put it on the Watergate. Sounds like it might be a cap letting loose in your power supply, maybe. But I got a good sound of it. Drop me a dead key. One more. Give me a dead key. Okay, I'm gonna send it to you right now. Hey, number 5. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Break, c'è qualcuno? Buona tarde. Ti ho sentito da... ero sul... stavo accordando, sono sul canale, ti ho sentito un po', Ti hai chiamato. Ciao Fra, ben sentito, dai, come va? Bene, tu, sto provando un po', scaldando un po' le valvole qua. Sì, un attimino che mi sdraio, che se la do... tanto per cambiare, dai. Stanotte l'ho passato un bel male, come tutte le notti, vabbè. Stamattina alle 6 mi sono dovuto alzare a prendermi l'occhio, che sennò non riuscivo dai dolori da stare, sembrava che mi stessero stringendo con una pinza. Questo periodo, più di dolori, forse sarà cambiamento del tempo, anch'io ho il braccio. Una settimana fa ho preso un po' di Brufen, proprio per calmare un po' l'infiammazione, c'è qualche tendinite, Ma quello lì passa subito, il mio non è questione di cambiamento di tempo. Sì, il cambiamento di tempo ti fa soffrire di più, però il mio c'è un'osso in necrosi e anche del liquido all'interno, capito? Sarò là, addirittura in necrosi. E quindi cosa devi fare? Cosa stai combinando? Cosa stai facendo? Che cura ti hanno dato? Nessuna cura, solo antidolorifici, sì, quando mi opero. E quindi c'è la cura e l'intervento? Sì, guarda, il problema c'è stato perché con la storia delle, che non hanno dato i soldi qua a Sassari, ne hanno mandati tutti a Cagliari, non volevano chiudere se l'operatore, però io ancora rientro perché avevo già fatto il per il ricovero, ma la sua sala scampata per un miracolo. Siamo alle solite, sembra che questa sala sia in pendenza, i soldi vanno a finire tutti giù. Sì, finanziamenti tutti a Cagliari, capito? Qua non c'è nulla e i dottori non vogliono fare il lavoro normale, no? Mi sembra normale la storia. E praticamente a me mi dovrebbero operare a fine di questo mese e prima dell'altro, di dicembre, capito? E quindi manca poco. Sì, è poco, per me non è molto, credimi che è molto. Non passa mai. Poi, con i dolori che ho, guarda, è molto sì. E vabbè, già passerà, dai. Speriamo che me lo facciano questo intervento e buonanotte, perché non posso più stare dai dolori, fra. Cosa ne fate? Ricostruiscono qualcosa? Ti devono ricostruire l'articolazione, cosa ti fanno? No, mi mettono la protesi direttamente, mi tagliano l'osso, la parte superiore dell'osso, della testa del femore, e mi mettono la parte acebolare, l'osso, la testa. È quello che volevo dire, ti ricostruiscono l'articolazione a livello artificiale, te ne mettono una in protesi, dai. Taglieranno il moncone del femore e inseriscono diciamo la parte maschio, poi la parte femmina, non so se lavorano sul bacino, metteranno lì tipo una ghiera, la vitano al bacino, dai. Praticamente lo incastrano, è incastro, capito? Lo incastrano come era incastrato l'altro, lo tolgono con delle leve, lo tolgono, lo mettono fuori e poi mettono, avvitano, tipo una vita senza fine, capito? Da una parte e dall'altra. E avvitano all'osso e poi lo incastrano di nuovo. E poi diventa tutto un pezzo che l'organismo calcifica e ti blocca la nuova protesi, dai, speriamo bene, dai. Mi so ce l'ha fatto quella parziale, tu devi fare quella totale. Sì, io ho già fatto una franca, grazie a Dio mi è andata bene, ho acquistato il 100%. Sempre totale l'hai fatta o parziale? Totale. Allora, quindi già ne hai passato anche tu. Sì, perché dai, lascia perdere. La coxartrosi, praticamente ho questa artrosi a tutte le ossa, delle mani, delle braccia, solo che dalle altre parti, grazie a Dio, ancora non c'è stato bisogno di operarle, però sento tic, track, tic come ti muovi. È una cosa ereditaria oppure solo tu hai sofferto? No, è praticamente dovuta anche al tipo di lavoro che ho fatto, capito? Tirando pedane, facendo pedane piene d'acqua, allora si usava le traspalle a mano, quindi si può immaginare gli sforzi che ho fatto. Anche entrare nelle celle frigo, anche quella non doveva essere un granché, prima sì, c'erano a volte le tute, ma nessuno le usava. E poi ero anche in pescheria, capito? Perché magari era anche in pescheria. Quindi già ne hai preso fredda anche tu. E allora, e poi più andavi più peggiorava la cosa. E alla fine poi non ce l'ho fatta più, non era possibile continuare perché i dolori erano atroci, non ce la facevo più a lavorare. Sì, anche siccome tutti questi dolori che abbiamo sono cose dovute alle cazzate, diciamo, che ci hanno fatto fare, che abbiamo fatto da giovani. E anche io uscivo con i capelli bagnati, mamma mi diceva asciugati i capelli, poi da grande te ne accorgi se è mesi poi ha ragione. Le stesse parole che mi diceva anche a me, mia madre. E noi avevamo le orecchie tipo tubo di, come si chiama? Il rotolo dello Scottex, il cartone, che praticamente c'entrava da una parte e usciva dall'altra. Allora eravamo ragazzi, perché facendoli asciugare così si facevano tutti a buco i capelli miei, capito? Quindi mi piacevano di più. Non solo, mettevamo anche la gelatina per rimanere l'effetto bagnato anche. Io la metto tuttora. Tu c'hai i capelli, ancora. Il gel metto, non la gelatina, proprio il gel, non la brillantina. Sì, il gel. No, io ormai sto rasando, come faccio la palla faccio anche i capelli quasi. Ma completamente ti rasi? Non sempre, a volte uso quella da qualche millimetro, no? A volte proprio passo anche la lametta, quando mi rompo un po' passo anche la lametta. Franco, non ti sei accorto di niente? Che cosa, dimmi? Con che apparecchio sto uscendo? Non lo so, però ti chiamo bene. Il Galaxy. Un altro? Oh, è ritornato quello. No, non sempre il mio. E come mai? Perché quella persona a cui l'avevo dato non aveva posto, era troppo ingombrante per lui e niente, dai, ci siamo arrangiati e me l'ha tornato. Vabbè, almeno te l'ha riparato, dai. K, sì. Vabbè, io ho pagato i soldi della riparazione, là. E niente. Va bene così. Ma poi già è una persona in gamba, non lo conosco, però a livello per come sento, lo sento parlare, sicuramente è una persona in gamba. Sì, è gammissimo. Vabbè, dai, ha pensato a me, me l'ha chiesto, io gli ho detto di sì. Beh, anch'io mi sono accorto un po' che ti mancavano parecchio. Sì, è vero. Ma con chi l'avrebbe sostituito, lo sai? Marco? Ma con chi l'avrebbe sostituito? Perché a me piace questo apparecchio, la mia chicca. Infatti, ma io quando sento che l'avevi regalata non è possibile. Come si fa? Vabbè, non l'ho regalato, l'ho venduto una cifra irrisoria, ma l'ho venduto. Infatti era quasi regalato, dai. Cazzo, era un megassato, capito? Perché qua non c'è nessuno che li ripara e è un casino. Qua se ti si rompe un apparecchio devi andare fuori per portarlo. Ci sono, però sono dopo Bologna a Borore. Non conosco. Anche il mio, questi qua sono come il Galaxy, è lo stesso. Avrebbe bisogno di qualche allineata perché è un po' fuori, va un po' di frequenza, l'altro l'FM funziona male, in uno c'è un interruttore da sostituire, no? Non spegne più praticamente, non fa più il click per spegnere. Sono fesserie che vorrebbero fatte. Per l'allineamento te lo può fare anche Vittorio, te lo fa anche Vittorio l'allineamento, perché c'ha il frequenzimetro per allineare. Anche per la deviazione FM tutto c'è? Penso di sì, penso che abbia anche quello. Se ha tempo, perché ha sempre un bel lavoro. Quando io gli ho fatto il gara si era ritornato perché ha detto che gli stava facendo perdere troppo tempo, quindi li portarglielo d'estate, ma a me mi interessava subito. Io quando faccio la cosa voglio lei sapere da fatta. Come dice mia madre, appunto è molto. fatto subito. E comunque in sostanza che problemi aveva? Il mio? La riparazione, cosa. In cosa consiste quella che ha fatto, dai? Ho messo il finale rigirato, sicuramente non andava bene. Ne l'ha messo originale, capito? Tutto lì, non è che aveva niente di che. Non usciva proprio di potenza, E vabbè. E poi qualche altro che stavi controllando, anche tu che avevi un altro apparato da sistemare. Andiamo, Caterina, Lucchetta. Ma non c'aveva niente, dai, era un filo che all'interno che era staccato. Sono tutte cavolate, Luca! Andiamo, Caterina, ciao, Cuccariello! Cuccariello! Ciao, Gianni, io sono computer. Anzi, due. Poi, vabbè, stamattina con muratori, adesso praticamente sta asciugando, come si chiama, lo stucco nelle mattonelle in bagno. Lui c'ha piazzata, rubetti piazzati, scaldabagno piazzato, tutto a posto. Ci manca la box luce che l'ho ordinato già, arriva tra il 24 e il 28 di novembre. Ho capito, ma il placcaggio te l'hanno fatto tutto in bagno? No. Già, il miracolo me l'ha fatto quello. A metà, dai. Sì, ma la volta che c'è le box luce non si vede, capito? Non volevo che fosse, ma l'ho notato subito, una è bianca e l'altra è grigia, così è. E l'ho notato subito, pensavo che fosse qualche cosa di luce, di riflesso di luce e cose, invece no. Già, vedi la continuità, o così o pomine. Vabbè, no, io ho detto, ma poteva fare l'ultimo placcaggio già che vira, secondo me, vabbè, già va bene lo stesso, dai, che di una frutti. Avanti, carissimo Franco. Quindi Luca, sei di impresa, sì. Sì. Vabbè, adesso mi sto sistemando questi computer, dai. Ma sono qua comunque, riprendete. Io ne ho uno computer invece che non non carica più il sistema, bu. Sta sempre girando, girando, non carica più. È un vecchio Asus, bu. Si può fare. Vecchio quanto? Bu, una decina d'anni. Era, credo che abbia come processore. No, no, forse non è quello. Un i5 può essere, bu. Ah, sistemiamo anche quello, porta. È di mio figlio, ci ha provato ma no, non va. Se capita te lo porto. Là, se non carica, due sono le cose. O è l'hard disk danneggiato, oppure magari è troppo pieno, non lo so, ma da vedere. Ma sicuramente l'hard disk danneggiato. E quindi ci voleva la disk nuovo. Ne ha uno esterno, ha provato anche uno esterno, con come si chiama? Un SD esterna. Boh, da vedere fra. Tipo adesso faccio un esempio, un HP, praticamente gli ho messo l'SSD con Windows 7, però qualche apparecchio non riuscivo a trovare i driver delle porte USB, perché le porte USB non mi funzionano, e allora sto rimettendo di nuovo Windows 10, sto caricando un altro computer e poi la rischio lo metto dentro, poi aggiorno, faccio tutto l'aggiornamento della Moradam e mi tocca fare così, perché non mi fa andare, non mi funzionano le porte USB, non ho altre possibilità di installare quello che devo installare. Poi con Windows 10 fa gli aggiornamenti e installa tutto quello che c'è da installare, capito? Adesso conclude, finché funziona bene va tutto ok, appena inizia ad andare male è un casino, dai, avanti Gianni. Ehi, ehi. Vabbè, questi computer io già ne sto usando poco, fra. Sto usando più il telefono del computer, ci credi? Sono sempre col telefono in mano, va che non stiamo mettendo me. Però attacco il primo per il migliore frequentatore di Facebook. No, anch'io ormai faccio tutto dal telefonino. È grosso, il mio c'ha, mi sa, 12 giga di RAM. È una bella, E anche lui è già buono, è un Oppo, non l'avevo mai avuto io Oppo, non l'avevo mai sentito, però va bene. Io ho preso Motorola, l'ho visto scontato, è 70%, non ci credevo, ma è vero, è così. Perché l'ha preso l'anno scorso, era diciamo il top di gamma. È stato scontato perché prima lo veniva abbinato a una scheda TIM, però non è brandizzato e non ha nessun vincolo, non ti esce nessuna scritta della TIM. E quindi alla fine è scaduto l'offerta e l'hanno venduto separatamente. Invece che 1200 o 1300 costava era a 300 e qualcosa, 390, 380. E gli è andato bene allora. L'ha pagato lo stesso bene. Però, cioè, non ho preso 1300 euro che costa a prezzo pieno. Allora io quei soldi non li avrei mai spesi per un telefono, mai. Allora io ho speso sulle 280 così, ma di più no. Io prima sì spendevo qualcosa, adesso ripeto, se non fosse stata un'offerta non l'avrei mai preso. Però si vede che è un bel telefono, cioè addirittura a volte lavoriamo in zona dove non prendono i telefoni, io riesco addirittura a usare internet, i miei colleghi dicono ma come fai? Non lo so, vuol dire che c'è una ricezione migliore. Ma poi adesso non so se sia una cazzata, ho visto su internet questa antenna adesiva che si attacca al telefono per fare avere la migliore ricezione. È quadrata, si attacca piatta, si attacca al telefono e dice che questa cosa funziona bene. Non lo so, guarda che intanto stai mancando di radio, o non stai premendo bene il PDD. No, non lo so, sì, ho visto qualche antenna che si attacca però alla porta USB, non so però se funzioni. Poi probabilmente perché lo devo premere da giù, lo premo da su, sono abituato con l'altro microfono che lo devo premere da su, e questo qua invece è da giù che lo devo premere. Guarda, che microfono stai usando, un palmare? Sì, un palmare. Sempre amplificato però. Perché non si sente? Che troppo. vabbè, questo qua va bene, ecco, questo apparecchio va bene. Poi ho messo il Super Sidekick che l'ho riparato perché le linguette non toccavano, non usciva, e l'ho riparato e l'ho messo col Cobra. E invece si trovano ancora quella camera eco della ZG, si trova ancora in giro, nessuno ne ha. Non lo so se qualcuno ce l'ha ancora, della ZG non penso, qualche cosa l'avevo sentita, mi pare che ne aveva una Graziano Gufo di camera eco, però non so che fine abbia fatto. perché quando l'ho usato con questo mic, siccome è anche amplificata, quindi aumentava ancora la radio, quindi anche se tu usavi pochissimo eco, però la voce era un bel forte. Ma con questa radio qua, se dice? Sì, sì, con questa che avevo, poi si era bruciata, non l'ho più riparata, sai che fine ha fatto, ma è stata buttata dai miei genitori, ce l'avevo buttata sicuramente. Vabbè. E ogni tanto io cambio, dai. Ho messo il, come si chiama, il DM1000, l'ho messo nel 3009, e questo qua nuovo l'ho messo nel Galaxy, e invece il Super Sidekick l'ho messo sul Cobra, perché se lo metto sul Galaxy fischia, invece sul Cobra no. Beh, vuol dire, non è compatibile. Adesso come ce l'hai regolato? Sia, diciamo, il mic gain che sul microfono? È tutto al massimo. Tutto a manetta, come me. Aspetta, comunque io posso mettere anche l'eco, non è che se l'eco lo posso mettere, aspetta, vediamo un po'. Guarda adesso se c'è l'eco. Attenzione, Franco, il checco c'è. Sì, sì, c'è. E questo è l'eco del garage, se l'ho tolto. Tolto, sì. Sì, l'hai tolto. No, funziona. Funziona tutto. No, perché al buio non ci vedo, no, perché non funziona, perché non ci vedo al buio, sono al buio, così sdraiato, perché secondo come mi muovo mi vengono le due risposte. Vai a memoria, no? I tasti ormai li conosci a memoria, penso. Dopo aver avuto 5 di garage. Oh, ya. Yeah. Beh, Luca. Non mi tocca nulla a me. In che senso, Luca? Hai detto, Luca, non mi tocca nulla a me. Penso di gallarmi, quello ti voleva dire, fra. Abbiamo parlato insieme, dimmi già. Ho detto che ti voleva dire di me, sono di galla. Ammazza un po' la... che siamo troppo vicini. Mi sarebbe un male la cassa. Ho detto, lascia a metà, come sta arrivando? Adesso è da salotto così. Dimmi se devo abbassare anch'io, Che tu sei forte, cosa ti stavo dicendo? Che lui ti intendeva dire di me so di gallà, tu gli hai detto me lui, e lui ha detto a me non mi tocca nulla. adesso ho abbassato anch'io, va meglio? Ok, adesso si è da salotto. Adesso è diciamo, a metà, ma il mic è sempre alto, ho abbassato il mic gain dell'apparecchio. Oh, già va bene adesso, anche se è forte lo stesso, non è che sia debole la radio, è abbastanza forte. E il ferie è andato, Cifra? Il ferie ho fatto un paio di settimane ad agosto, mi sembra le ultime due, e poi qualche ponte sto facendo così a fine settimana, tipo dal venerdì sera, dai, mi faccio sabato e domenica, e basta, boh. Ah, così te le stai consumando così, dai. E ti fai fine settimana e fai bene, così almeno se devi andare da qualche parte va. A volte qualche il venerdì prima facciamo riuscita con gli amici e il sabato poi a lavorare dura, io lavoro anche il sabato. Beh, c'è così. A me che non c'era reperibile, tipo l'altro giorno ero reperibile, avevo fatto, mi ho scambiato il turno, mi ha fatto la sera, così sabato mattina ho riposato e sabato sera ho lavorato. Beh, sai che lo puoi fare. Da noi era tutto un casino, oltre che praticamente lo chiedevi al collega, il collega magari era anche consenziente, ma doveva essere al corrente anche il datore di lavoro, perché se no, se magari non era in grado di fare ciò che facevi tu, lui doveva praticamente appurare che fosse una persona in grado di sostituirti al 100%. Sì, sì, anche per esempio questa settimana ero in turno, invece mi ha chiamato un collega, aveva problemi, posso fare io il tuo turno? E ha detto, chiedi, se te lo autorizzano, ho detto, per me non c'è problema. Ha chiesto, gli hanno autorizzato e quindi il mio lavoro se lo fa lui in settimana. Allora già va bene, dai. Se sei d'accordo già va bene, lavorare d'accordo va bene, ma ci sono quelli che sono la mai, magari dai. E io ormai siamo rimasti quattro gatti, no? Sì, c'è sempre qualcuno che qualche elemento destabilizzante, però diciamo il vecchio gruppo nostro siamo abbastanza uno aiuta l'altro, vai, quando nel momento del bisogno specialmente. E voi ti c'è tanti anni, quanti anni ci sei lì, fra? E qua ci sono 34. Grazie. abbastanza, io 38 ci sono stato. Siamo lì, dai. Poi ne ho 8 anni fuori, però no, purtroppo non ho trovato tutti gli 8 anni coperti da assicurazione, se no sarei stato già a quota 42. Cosa facevi fuori, lo stesso lavoro? No, facevo il serramentista, facevo i fissi in alluminio. Ah, ho capito. Va bene così. Ma non te ne hanno versati i contributi? Qualche cosa te l'hanno versato o no? Ripeto, su 8 anni ne ho la metà, 4. A volte cambiavi, quindi si tenevano in prova, questa prova non finiva mai. Buonanotte. No, io sono stato sempre fortunato, la verità. Vabbè, a parte l'estate quando lavoravo da Kirchi e portavo le bibite col camion, e lì era un lavoro così, e poi mi aveva chiesto se rimanevo fisso, ma stavo studiando, gli ho detto di no. Mi voleva pagare anche il doppio, ma ha detto se io ti do il doppio, guarda, se rimani, perché ha visto che lavoravo, capito? E non ci sono rimasto perché dovevo finire gli studi, quindi non ci sono rimasto. Però vabbè, io ne ho fatto diversi lavori, ho lavorato all'Alleanza Assicurazioni come assicuratore, ho lavorato lì da Kirchi, ho lavorato da Murtula, da Emelunga, e poi vabbè, sono entrato qua al Tourist Market e ci sono 38 anni. Io con l'Alleanza ne ho riscattato due assicurazioni, da piccolo, intanto i miei genitori. Mi sembra che quanto ho pagato? 20.000 lire al mese ho iniziato. E poi tuttora ne ho ancora una. Ho finito di pagare la mia, quella di mia moglie, ho riscattato, adesso sto pagando quella di mio figlio. Quelli 16 soldi li sto versando a lui, da. Ma vabbè, c'è poca convenienza. Io mi ricordo che l'ho ritirata un po' prima e ho perso 5.000 euro. No, io ho sempre rispettato le scadenze, diciamo che non tiravo tantissimo, però nel frattempo sei stato anche assicurato, quindi hai avuto un servizio. E in più ti restituisco i soldi, con qualcosina in più, è un salvananaio, dai. La mia era un'assicurazione a vita e pagavo 350 euro al mese, non poco. Che cavolo, 1.000 lire, forse c'era la lira ancora. Vabbè, 1.000 lire forse sì, hai ragione, in lire. E comunque erano soldi lo stesso, No, io ero in genere sulle 100, 100, 120 all'epoca. Adesso mi sono messo pagando 230 per mio figlio, dai. Però io ho fatto aspetta, quella che rendeva di più era la DR Super, non so se te la ricordi. No, praticamente io ci avevo l'Alleanza assicurata io, mia moglie, mia figlia, e mio figlio invece ce l'avevamo assicurato dalla banca. Dalla banca avevamo fatto un'assicurazione e poi alla fine ci siamo resi conto che erano tutti i soldi in più spesi, un po' così, e li abbiamo ritirati tutti. Ripeto, è un salvadanaio, dai. In più si è anche assicurato, devi tenere conto anche quello. E vabbè, comunque, sì, sicuramente investimenti ci sarà di meglio in giro, però devi muoverti in questi meandri. Ma infatti, bisogna essere strodati bene per fare, vabbè, io sono andato bene perché qualche anno ho giocato in borsa e mi è andata bene, poi vabbè, non ho più giocato perché ho avuto paura. Mi ricordo, mio padre ha perso un sacco di soldi, tanti anni fa si è fidato di una persona e ha perso un sacco di soldi. No, io invece ho guadagnato, li ho ritirati quando stavano salendo, avevo le azioni Enel ed erano anche molto redditizie. Li ho ritirati quando stavano salendo, qui hanno continuato a salire, però mi ha detto il direttore della banca, le conviene ritirarli, guardi, perché se poi succede qualcosa, decade tutto e perde sacco e sale, invece così c'è il suo gruzzolo, c'ha già un bel po' di soldi, cioè, ha detto 10.000 euro più 1.500 euro di bonus, 11.500 ritirato. In quanto tempo? Nemmeno un anno. Tanto bene, dai. A volte bisogna avere anche il coraggio, sì, a volte puoi perdere, devi avere il coraggio di non vendere, capito? Perché se vendi, magari perdi. Devi aspettare che di nuovo salgano le azioni. No, devi avere il coraggio quando stanno salendo di ritirare, perché se no poi se decadono di colpo perdi tutto. Vabbè, io sono stato seguito da un cliente che quando andava a casa sua aveva sempre il televisore sulla borsa, e ho chiesto consigli e lui mi ha detto: guarda, prenda queste azioni Enel che stanno salendo di giorno in giorno, e ne prenda più che può. E infatti io ne avevo preso 20 io e 20 mia moglie, ne aveva preso a nome di mia moglie, capito? Quindi abbiamo preso un sacco di azioni, per quello abbiamo guadagnato bene. Bravo, è stato in gamba, no, ti ha consigliato bene. Sì, infatti lo chiamavo Alta Finanza io. Vediamo se Luca ha finito di riparare. Non è che l'installa così, stiamo operativo, ce ne vuole tempo. Guardi, è più lenti sembrano questi computer quando stai installando, no? Ma la barra non finisce mai di caricare. Sì. No, vabbè, questo qua è un i3. Perché c'era 4 giga di RAM, io ho aggiunto altri 8, sono 12 giga di RAM e c'ha l'hard disk SSD da 500 giga e niente, già è abbastanza veloce. Gli hai tolto l'hard disk normale e gli hai messo l'SSD? Tondo. E gira alla grande, no? Aumenta la velocità. Gira bene, un i3. Va bene. La batteria va bene ancora? Ah? A livello di batteria è buono ancora? Parte subito questa batteria? No, batteria dura poco. Giusto tanto di staccarlo, spostarlo, ma non dura molto. Cosa vuoi? C'è un PC di 5 anni, dal 2018, 4 anni, oggi è quasi 5, dai. E non è vecchissimo, no, quello mio figlio è molto più vecchio. Ripeto, anche se era un bel computer, tutto in alluminio. Allora, il discorso del computer, se tu gli fai la manutenzione, gli fai la pulizia della ventola, poi pasta di raffreddamento, gliela cambi, non dico una messi, ma gliela devi cambiare, non è che te ne frighi, bisogna pulirlo il computer internamente, e solo lui soffre, capito, la scheda si riscalda e poi inizia ad andarti male. Sì, no, la ventola l'abbiamo anche cambiata un paio di volte, mi ricordo. Cambiata o pulita? No, cambiata proprio. Da pagato. È una parte che era sporca, anche già rumorosa. Cosa? Era già rumorosa, dico, di... faceva casino. Ok. Avanti già. Ehi, stavo dicendo, c'era questo rappresentante da noi, ha giocato le azioni Tiscali, si è fatto la casa in campagna, ha vinto un po' di soldi. Come si chiama? Con guadagno, dai, delle azioni, la differenza, da quanto le ha comprate e poi le ha vendute. Sì, le ha vendute e ha ricavato, quello che ha ricavato praticamente si è fatto la casa, io non avevo fatto in tempo a prendere, le dovevo prendere ma non ho fatto in tempo, lui invece sì, ed è andata bene, ha guadagnato un po' di soldi. Se becchi l'onda giusta è così, però è sempre un rischio. Io non sono molto propenso, mi piace più, non so, guadagnare meno, però sicuro. Ha speso 5.000 euro e ne ha guadagnato oltre 100.000, fatti rugo. Perché quel periodo sono schizzate alle stelle, poi sono scese di nuovo le azioni e la fisica si è un po' stabilizzata. Sì, ma lui ha trovato il periodo buono, capito? E ha avuto anche il coraggio di lasciarle per un po' di tempo, capito? Quindi ha fatto un guadagno, ci ha fatto la casa, ti sto dicendo, ci ha fatto la casa in campagna. Dice già, io con quei soldi lì mi sono fatto la casa, la prima cosa che ho pensato è farmi la casa in campagna, e così ha fatto. E anche quello è un investimento, sul mattone. Ah beh, certo che è un investimento, è cose che acquistano sempre valore, non è che lo perdono come le macchine, ti prendi la macchina dove, come esci fuori, prendi già il valore. Sì, anche se anche la casa ti dà spese. L'altro giorno stavo seguendo un programma, questi due erano, diciamo, ognuno diceva la sua. Qualcuno era propenso che conviene più in affitto piuttosto che avere una casa di proprietà. perché ripeto, ci sono un sacco di spese per gestirla, per insomma, per tenerla come si deve una casa, dai. Sì, ma se sei in affitto il giorno che il proprietario le serve, ti dà un calcio da sedere e ti manda via, e tu dove vai? Ti devi cercare un'altra casa, trasferirti, è una paranoia, dai, lascia perdere, bene avere la casa di proprietà, anche perché i soldi in affitto sono a fondo perduto, mentre invece se tu prendi un mutuo ti paghi la casa e tu rimani tua, io la vedo così. Sì, ma io sono due teorie diverse, ognuno così foraggiava la sua, però ripeto, hanno tutti e due più o meno ragione, perché ognuno uno la pensa in una maniera diversa. Io sono libero di fare quello che voglio, non devo mai riparare il bagno, non devo fare questo, impianti elettrici, mettere a norma la casa, tetto, facciate, cose varie, al fine di diciamo più le somme, e ti costa un sacco di soldi quella casa lì, sì, come dici tu, ti possono buttare fuori, a meno che non ti fai un contratto bello blindato. Ma non sei mai sicuro, però quello hai capito, quando la casa è tua e rimane la tua, e vabbè, ognuno la vede nel modo suo, sì, come in tante altre cose, così ognuno la vede a modo suo, ma io la vedo in questa maniera, piuttosto cazzo che buttare i soldi, perché sono buttati, sono a fondo perduto quando tu li dai così per l'affitto. Paghi un mutuo e poi la casa è la tua, come ho fatto io. Sì, specialmente qua in Sardegna siamo tutti propensi, diciamo, a avere la casa di proprietà, però a volte fuori rimangono allibiti. Sì, lo so, io conosco molta gente che tanti anni che si è sposata, sempre in affitto, sempre in affitto. Però ci sono i pro e i contro da tutte e due le parti, dai. Sì, è così, dai. Che cosa si è fatta? 7:10, dai. Ci sentiamo a preparare qualcosa per la cena. Dai, statemi bene, ciao Luca, ciao Gianni, alle prossimine, ok? Ciao Fra, dai, buona carica quando la fai, ci sentiamo, dai. E io, se non c'è nessuno, chiudo anche io, dai. Luca sta facendo. Luca? Ciao, sono in fase di metterti in tavola. Sono in fase di, come si dice, di montaggio del computer, lo sto chiudendo. E poi ne ho un altro che è in fase di aggiornamento. In fase di apertura. Allora stai ascoltando qualche altro radio? Sì, no. Sono Cortana. Cortana, mai fatti benedire. Sì. Dai, vi saluto. Ciao anche a te, Luca. Ciao, buon lavoro. Ciao, Fra. Buona cena, buona carica. Alla prossima. Ce ne sono qua comunque, dai. Vabbè, là, se non c'è nessuno lo chiudo, dai. Ascolto là. Come desidera, io già sono qua, chiamami. Sei qua, ma non mi puoi dare retta. Se si vende in TV, Luca, non si vende, si accontenti. E tu hai retta a me, se ti vuoi retta a te. Allora, con me lo chiamo. Non è muore, andiamo. Grazie, diavolo. Già, purtroppo non ti posso rispondere, lo sto chiudendo il computer, capito? Adesso metto le viti, sono qua comunque, Mi sento, grazie, adesso mi sposto alla radio che c'ho l'altro computer che sta aggiornato. Vabbè, dai, io ti saluto, vado. Vado. Sto ascoltando, allora, ci sentiamo. Via. Sono locali 10 cambio, ma non ti ascolto e non rispondete. C'è nessuno? Gianni,